knew you'd blowing all that smoke over here in London. So good morning, good evening, whatever it is. Yeah, I'm over here working like an old wagon mule. I'm out front of the road pulling. Son, you're loud and thunder over here. I'm on this old pickup mic cord over here in the garage. Thank you, thank you. Well, listen, I'm going back to work. I thought that's it. Okie dokie, bye-bye. Ecco, buonasera, ciao. Dove sei? Giuseppe Gavino. Ah, tu, buonasera. Come mi ascolti, tu? Sto provando un apparecchio omologato. Radio buona, tu. Fai un passaggio. 6910 qua, tu. Non ci sono problemi. Ti ascolto benissimo. Una bomba. Fai il primo passaggio. 910, sì, qua da me, tu. 910, a questo apparecchio. Capito. Adesso provo un'altra radio. Aspetta un attimo. Vabbè, l'altra è diversa da questa. Antonio, guarda questa. Prova. Ci sono 20, ci dà. Va bene, mi ascolti con questa radio. 1, 2, 3. La radio è buona, tu. Vabbè, voglio provare una cosa. Guarda adesso com'è. Fai, fai, dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prima il dovere a tu e poi il piacere. Quando tornerò a lavorare me lo torno a comprare. E si conferma. Vabbè, dai, ci vediamo più tardi. Ciao, tu saluta in casa, un bacino al bambino. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ora, ora, ora, ora. C'è qualcuno, capi? Io glielo dici. Qui è avanti, Antonio, buon morino, un attimo, facendo una cosa qua in verticale, cambi, in macchina sono, in macchina, un attimino per me. Attenzione, Saverio Perivella, sei tu la sgordigliera, Gianfranco la Cina. Forte chiaro, per il freddo, cambio. Sì. A casa. Cazzo, 9:30, sì, cosa hai fatto? stessa lista. E tu lo mattessi. Due forze sono. E abbasata. Adesso provo a abbassare il water. Facciamo ad un'udda. Sì, 9:15. Sul più arriva. E con lui mi era attaccato. Sì, non cambia, non cambia ora, sì, sul più. Chi è? Ma mi sono uscito poco fa dal lavoro. Sto facendo una cosettina qua, mi sto sistemando un tester. E poi vado a farmi la doccia e vuoi scendere dalla marina. Lei ha voglia. Lei è forte la radio, sì. Atto, Luca, che mi freddo. Regione Saverio, si imprenda, si ascolti qui, Epe. Attento Luca, per il freddo, si ascolti qua, questo piccolo modulatore, cambio. Porti chi ha sopra, dove si sa? Attenzione, sto attaccando un kilowatt, guarda il kilowatt, cambio. Cazzo, dove si? Fondo scala. Aiuto, dai, va, rubaccio l'Antonio, rubaccio. Come esce questa radiolina? Bene, bella, 5, bella, quella è normale, perfetto. Segnale 5, 5 e mezzo? C'è fondo scala, dove si? Ma quindi ti sta vibrando il piso, ma... Allora, tutto al tanga. Ui, c'ho mal di schiena, cazzo. Vabbè, oggi un po' meno, poi mi fa male la schiena. Sì, sto andando a lavorare, sto scendendo davanti a casa tua. Mi bocca lo capo per fare una cosa. No, ma no, su in camera sono mani di gozzi, infatti sto per entrare in duccia. Ecco là, vicino a Luca, passa qua che ti... Allora, bacio. anche sotto casa tua. Oh yeah, c'ho un kilowatt sotto, cambio. Bene, no, che bene, che bene, ma già vedi ti attaccato, dove? Dai, che sto scendendo in pizzeria. No, pensavo che di qua davanti a te non ti avrei fatto fare l'antenna, capito? L'antenna di gomma. Non esco adesso, non esco. Mi si messa, ma anche quando ti accari. Certo, perché anche io non ti travaglio, anche io. Cioè, al monte sto passando davanti a Luca, li volevo fare l'antenna con me, c'è una base magnifica. Andate bene, vera. Ehi, a tuo porto mi senti a monte. Io a voi, io mi sento tutti bene, tutti dritti al cuore mi arrivate. Andavo lì. Come va questo coso di mettere le baracchine in macchina, sapi? Oggi, intanto scendo a pescare, vado a pescare, tutto quanto, rimasto in compagnia, là. È capitata questa occasione, ne ho preso tutto, e cazzo esco la canna, cazzo trovo in preparazione, che sento la macchina. Come so con via Prati, San Francesco. Beh, immagino. Oh, questa antenna è una cannonata, l'ho fatta vedere anche a Gianni. Insomma, è leggera, di lusso, è pompa, è forte sia ricezione che trasmissione. Confermo, sì, la macchina radio è buona. Oh, non ci credevano che era un portatile, perché ce la trasmette bene questo portatile, la verità, c'è una bella trasmissione. E come l'ha attaccato la batteria o le batterie? Ha attaccato la batteria della macchina, là. Cioè adesso è attaccata quella del gommone, che sono vicini di dietro, ma la devo collegare a quella della macchina. Ah, ecco. Gaffa. No, esci bene, sapevi, esci benissimo. Ho messo un altro pezzo di tubo. Oh, si vede dalla strada? No, non si vede ancora. Ho provato a metterlo nel muro, ma mi sono stato troppo forte, troppo a grondaglia. Non sei riuscito dal tetto. Stazionarie? Uno e uno. Va bene allora. Sto usando l'amplificatore adesso. Oh, la Luca non vedo un parcheggio, no, mi piace, allucinato. Ora non ci sta liberando un parcheggio. Ah, sì, no, ma tu dai, guarda come ti arrivo la pizzeria, la più più. No, non si chiama di nulla, cazzo è buona con l'antenna. Ma vuol dire che ci ha fatto nulla, la cucurata, è rimasto solo mezzo ai palazzi qua, con tre vatti. Cazzo, no, al più, ti faccio una foto, ti faccio un video, non mi credi? Ma se la faccio, parcheggiato davanti alla pasticceria, tu conta tutti i palazzi che ci sono, arrivi a casa tua. Vuol dire l'antenna va bene, salvi, va buono, ma sei su più del più 30, cosa vuoi ti dica, ti faccio una foto. Cazzate non gli dicono, non so quanti testi bassoni di Disney, arrivi così o non arrivi così. Ti faccio un video, se vuoi, una foto, quello che vuoi, dimmi tu. No, perché poche parole, cioè, essendo un pochino avanti con un portatile, collegato sia l'antenna esterna, però un portatile c'ha poca uscita, la e arrivare lì così, forse, cioè come mi sposto e come ci andare per le palazzi, dovrebbe calare il segnale, capito? O tu perché ce la sta arrivando a forte? No, sono soddisfatto perché comunque tutti mi stanno dicendo che c'è bene. Guarda, 25, qua quasi è 30. Ma dopo il 20 è quello? In teoria 9 più 30 è tra il 3 e lo 0, quando è tra il 3 e lo 0 e mezzo, guarda, 9 più 30 è spaccato, si dice. E ho visto che Antonio ti sta arrivando quasi 9 più 25, leggermente più forte di me. Ehi, più o meno siete uguali. Io sono Galazio, sto lanciando la direzione del campo di Milano, sarà una cosa sul tetto, ma quello che ho detto non si fa. Dove sei il tuo campo? Non si fa. Non si guardava da palazzo. Quello di Instagram. Ah, ci guardi da dietro. Da bagata. Però sempre male, dai. Se fosse sul tetto qua. Allora avrei avuto una recensione, una trasmissione fenomenale. Almeno si dice, devo dare su io la buona del terrazzo. Sono la carrolata, Oggi io a pranzo stavo parlando con l'isola del Canaria, facevo un conto. Allora è un quarto, stiamo parlando con il canale, il fatto laterale. Cidiale, purtroppo capo, ho scritto le sabbie adatte, l'ho provate nel V2 ma non vanno bene. Ehi Antu, puoi mettere pure mezzo avanti, ti sento comunque, sei forte qua. Le sabbie ti devi mettere quelle a cementare al muro, capito, quelle fatte a V. E così ti sposti dal cornicione del tetto e riesci a salire. Facciamo duro parcheggio, boh, io sono in postazione, qua a pizzeria, dammi un controllo, segnale, dammi giù. Sono spostato all'altro angolo, lo so come fare. Sì, vabbè, allora, c'è solo un portatile, c'ho solo la 38, cioè, però ho collegato l'antenna sulla capota, capito? Si chiama portabile, Savi, portabile. Mettevi a mano, ti ho mandato la foto, Lucario, scatola, originale, due antenne, il gommino, quello piccolo e quello lungo. L'hai comprato usato? Ma non è stato mai trattato, c'è stata una scatola originale. Ah sai? Poi ho sbagliato l'antenna, due portatili, antenna ci vado a fare. 20 euro? Sì, sicuro euro. Lo ti dico, avanti, ti prego già ti lo dico. Che avrei musiti? Ma quanta sali su internet? Assassali, perché l'antenna è una fuciata, ragazzi, esce veramente bene. Basta che si apre un filo di propagazione e andiamo giù. Ah io non si pompa in motruffa, vada! No, è la verità, già, c'è una buona ricezione, poi a trasmettere, logicamente lo portati lì, non è che puoi fare grandi cose, però da qui sento. Sto scherzando, dai, lo so che è così, te l'ho detto io. Ma la ricezione poi è già bucia, adesso si sentiva uno, ora, e di salutina, era in propagazione, era. E io sono partito avanti la pizzeria, fatti un conto. Stai entrando a lavorare? Adesso quando ho dato il video, l'ho sentito anche nel video di che mi ha mandato Luca, e gli arrivava Andrea. Cioè come lo sta sentendo Luca a casa, lo sentivo io qua, in pizzeria, al tipo, figurati se ne ha ricezione questa antenna. E mi sa che la dai a me che mi segui. Ciao, ciao. Ciao. Adesso la piuma, la prendo, stacca, la stacco al volo, la metto in macchina. Manco la cosa nera devo staccare, manco la calamita che ne sta. La metto così nel fianco e via. Buonasera a tutti comunque, dai, sono entrato così a fare una battuta. Non so chi ci sia, avanti Luca, so che ci sei tu, però gli altri non so chi ci sia. Lugari è? Papà, un bel sparato che arrivo già. Chi? Beh, ho salito di un altro po'. Ma fine che è nato in lanta la gabbissuria, dai. No, papà, ma che? Solo che non ho lasciato la gabbè. No, ma tu le chiavi ce le hai per salire? La chiave, come lanciare altre. Ah, così è. Non vanno bene, che staffe c'hai? Già, là, ciao Gianni, comunque scusami che vado a fare una doccia veloce, dai, che sono visto al lavoro poco fa, arrivo subito. Vai, sai, le staffe, quelle corte, cioè, non vanno bene, non ci ho provato, però ne metto un paio lunghe, ne metto, mi compro quelle lunghe lunghe, metti i cancelli nel muro e salto sul tetto. E l'antenna quale metti, quella lì? Questa, e non la metti. Ma non è meglio che metti quell'antenna che c'avevi a Sassari Vecchio, scusa, che andava bene. No, già, la lascio questa per il momento. Ma, vabbè, già che ci sei, che stai andando, lo fai tu, dici perché si vede troppo. Facciata, Ma la vedono anche l'altra, vedono, mentre credi che l'altra non la vedi. Sì, andava per il momento, andava bene quella. Poi più là la mettevo. Era per fare una cosa una volta per tutte, vabbè, là, vedi tu. io avrei messo direttamente quella che vi ha Sassari Vecchio l'antenna. Se non va bene un conto, Antu, se non va bene un altro conto. Andava bene, andava bene, certo, non puntava. Poi quando prende acqua, quella lì mi gira un po', mi gira un po' le spalle. Ah, così è, vabbè. Vedi tu, Antu, cosa vuoi che ti dica? Tu stai a video. Beh, raga, io adesso vi saluto un attimo. Lo vediamo, dai, siccome se non c'è molta roba a fare, tre macchine dopo a fare due chiappe, ok? Cava. Non ti arrivo, non lo so, già a lavoro. Ehi, a salve, da. Buon lavoro, dai, ci sentiamo. A farne mille di pizze stasera. Lo so per io, lì. Così settimana sono tanti, c'è tutti. Vabbè, già. C'è molta concorrenza, però lavorano tutti i pistaiuli. Vabbè, no, ma questo qua è periodo un po' così, la gente lo bisognerà capire. Noi a dicembre abbiamo lavorato forte. Adesso gennaio, febbraio sono mesi un po' morti, poi si risolleva di nuovo il lavoro. Vabbè, sabato mi vengo per tre tempo, però capito. Dai, ciao Antonio, ciao Gianni e ciao Luca, magari ci sentiamo dopo. Eia, salve da, ci sentiamo. Avanti, Bombolino. Ah, salve, ci sentiamo. Ti arrivo già. Vai bene, Antu, sempre bene. Vai sempre bene. A me mi arrivi forte, sia di radio che di segnale. Sono con 3009 e in fondo scala. Cavagava. Niente, mi sto usando il 3009, questo consuma di meno. Cavagava. Vabbè, Antu, vedi tu cosa fare. Però il mio consiglio è se tu una volta sali, ti vedono una volta e buh, invece se ti vedo due, tre volte ti rompono le scatole pure. E quelle che si mettono quando c'è la mantovana, dai. Io le ho messe lunghe e poi alla fine corte. Due lunghe per tenere e poi una su corta. Ma da bricco me ne le trovo. Solo che in facciata, non so se vogliono ammetterla, non è così, no, timoni avvocati, roba del genere, ti danno grattacapi. Poi vedi tu, in facciata non si mette niente, io l'ho fatta scendere dietro, il cavo, tutto quanto l'ho fatto scendere dietro, attaccato al tubo dell'acqua, e niente, non si vede nulla dietro al tubo, il cavo. Ah, vabbè, che lo stai dicendo per te, vedi tu, io avrei messo direttamente un'antenna di quelle, avrei aspettato, ho messo un'antenna sul tetto e buf, è finito il gioco, l'avrei lasciata così, adesso l'antenna e poi quando potevo l'avrei messa sul tetto. Fascia tutto, Antonio, fascia tutto. Ciao Gianni, buonasera, buonasera anche Antonio. Poi fra, e beh, come va la vacanza? La vacanza, sono sceso in campagna stamattina, devo controllare il cane. Poi adesso domani lo porto su e lo porto a lavare, perché era tutto sporco e praticamente non me l'ho portato per quello. Quando vai dimmelo che andiamo insieme, così ti faccio compagnia. Vabbè, vabbè. Ne mi stai ascoltando Gianni? Bene, fra. Il scappa. Vabbè, sto utilizzando l'apparecchio omologato, il Midland. E io il 3009 con microfono normale, figurati. Va benissimo, ti ascolto benissimo, non c'è problema. Ma questo preamplificazione c'ha già? No, no, fra, normale, normale, una radio abbastanza presente ma normale. Vabbè, mi interessava che stava andando bene tutto qua, poi non mi interessa il segnale, la radio è quella che compro. È una radio dinamica di quelle normali, dai, per intenderci. KK. E in macchina c'hai sempre quello là, c'hai? Macchina c'ho quello piccolo, cata quanto spara quella farina. Ho visto. Lo so, in macchina c'ho quello piccolo e l'ho pilotato con quel 150 ZG. Ma quello lì omologato è fra? No. bomba è vecchio già quello lì, non ha perché a radio. Ecco. Vabbè, comunque quello lì lo puoi mettere anche dentro il cassetto, anche fissati. Dovete un garage, uno e l'altro, e non si vede nulla, è scomparsa. Ma infatti, e poi esce bene, quando gli attacchi l'amplificatore c'è ancora più forte. Vabbè, e io ti ho sentito da stintino, ti sentivo Santiago 8-9, da stintino. Allora, quando io stavo parlando con te, tu a stintino mi stava arrivando 9-5-9-10, figurati. Eh sì, perché Stintino è favorevole per Sassari, non lo so perché, perlomeno per la mia zona è favorevole. Ah, arrivate benissimo. E... comunque si pesca lì o niente, fra. Allora io l'altro giorno ho preso una mormora e due oratine piccoline, sono state 200 grammi. Sempre con gli americani. Beh, allora, americani, bibi e cannolicchio. E le peccate con l'americano, scommetto. L'americano è il numero uno, non ce n'è. Costa però è buono. Io ho preso di tutto con l'americano, ho preso anche le rase. Cazzo rase, mi si è attaccata una stella marina, fra. Lo sai che la stella marina mangia? Io non lo sapevo. Fra, praticamente l'americano è un'esca, ce la fanno pagare, però guarda, è micidiale. Secondo me è il numero uno in assoluto per gli orati. Eia, perché sanguigna, come capito, sangue di attira. Allora io stavo guardando un documentario poco fa sul video pesca, che stavano pescando addirittura gli orate col cannolicchio con la buccia con tre rami dentro. Sì, prima anche a Platamona pescavano così, si allargavi appena appena, li facevi entrare gli ami e poi si richiudevano, legavi col filo elastico. Comunque stavo seguendo, praticamente il cannolicchio con la buccia, dice è raro che te lo mangi il pesce piccolo, però quando attacca prendi roba bella, capito? E le orate lo mangiano, quei pesci di orate saranno i grossi. Pagappa. Però vuole il cannolicchio, vuole fresco, perché se è congelato non te ne tocca. E già mangio anche quello a futidini. Io ho pescato anche col cannolicchio, ma non sai cos'è, il cannolicchio quando tu lo apri per metterlo si riempie tutto di cosa, di api, quasi tutte le api arrivano. E lo so già, infatti è per quello che io a volte evito di usarlo. Attira un bel api, io non capisco il perché, più che mosche le api a gogo, infatti devi stare attenta che siano di bugne, secondo come tu lo vai a prendere si sentono che deve sempre la roba da mangiare da sotto e ti pungo. Micidiale, è micidiale, infatti è così, va, da voi ti dica. I granculi non ti piacciono per pescare, una volta la granculi ha già fatto strage. Ma lo sai cos'è? Che quelli diciamo che sono rari a trovare già, non ho che non conosci qualcuno che c'ha il peschericcio, capito? Se no non è trubili qui. Io avevo un amico, c'ho un amico che c'ha il peschericcio, lo chiamavo via radio, lo chiamavo sul canale 12, mi rispondeva, sono i motori, dimmi già. Ascolta, ma per domani c'era una caccia di cannolicchi, di granculi. Allora fa una cosa, domani ti lascio la macchina col cofano aperto, passi sotto casa, gli alzi il cofano e te li prendi. E me li regalava. Giurati. Però dice, devo prenderli prima che ce li prenda nei marinai, perché solitamente si li dà nei marinai, capito? Perché li utilizzano a pescare loro, tutto lì. No, si rivendili. Cannolicchi sono micidiali, i granculi, cioè. Una volta uno mi ha detto, ascolta, non è che mi fai una cortesia, non è che mi fai fare un lancio con un granculo, poi me ne vado. Cazzo, mi ho fatto fare il lancio, abbigliato un'ora da ragazzi, se lancia da 3 o 4 kg. Dopo 10 minuti mi sapeva il punto e l'ora esatta, ti ringrazio, guarda, sono senza lavoro, così me la vedo, mi faccio qualche soldo, mi ha fatto pure un bene. Beh sì, quando è così, No, domani devo andare a pescare e vado lì alla zona di Posada. Sì, ci sei scendi. E mi ha invitato mio cugino Gianfranco, ma dice, aiuto, ci vieni, dai. Faccio, Partiamo domani mattina verso le 10 e rientriamo domani sera. Ma andiamo fra con quello che c'è anche la sera. Fate positivo. Dare tanti saluti. Non lo sapevo che era tuo cugino. E tanti saluti a Gianni Verdi. Mio cugino Gianfranco in primo grado, capito? Kappa. C'è il campo di tiro lì a coso, dove c'è l'incrocio di due mari là. Sì, lo so. C'è là praticamente a Campanella. Ci conosciamo da bambini, capito, con Gianfranco. E Lello, pure Lello è tuo cugino. No, negativo. No, Lello abitava adesso a Palazzo, forse adesso che mi ricordo. E comunque Gianfranco io lo conosco da bambino, capito? E ti posso dire anche dove abitava da ragazzo, ci conosciamo da piccolo. Dove abitava? Al Sacro Cuore sempre. Dietro Sacro Cuore. Per scendere via le Sicilia lì. C'aveva, prima della del discesore che c'è, in quello spiazzo che ci abitava lui. Cappa di positivo, infatti. Riprendi Antu che va, c'ho il cappa nel fuoco. Antu, bombolino, bomboletto, ci sei? C'è come migliore tempo, già ne tolgo quell'antenna da Sumi. Eia. E a metà di lui. Dai, se te ne ricordi, vediamo un pochettino, là. Kappa. E dovrei anche mettere l'altra io, quella per ascoltare con il ricevitore, però sto ascoltando bene anche con l'antenna del baracchino, arrivano segnaloni. Discone ti devi mettere già, un discone. Ma non volevo dare molto a Lucio, capito fra? Nel senso che con lui si lamentano per l'estetica, per questo, per l'altro, poi devono fare il tetto adesso, c'è uno che si è lamentato che gli entra con l'antenna dal soffitto. Scusa un attimo, ma ti volevo dire, ma il discone che fastidio dai, è un ricevitore, lo puoi utilizzare tranquillamente, non è un trasmettitore. Lo so, però dà fastidio ai condomini, capito? Quando ti vedono sul tetto li rompere scatole a loro, stanno sempre dicendo cose. Non lo so, se c'è questo problema, ma che fastidio dà, non ho capito qua. Come vedono l'antenna, stai disturbando, stai facendo. No, io dico la verità, io non disturbo nessuno perché è stata cambiata la centralina, l'antenna nuova e tutto. E magari tu non avevamo fatto fra per non fare TVI, non te ne ricordi, abbiamo dovuto tarare l'antenna. Lo so già, però adesso non sta più disturbando. Vabbè che la centralina è nuova, oramai è tutto cambiato anche le frequenze, quindi diciamo che è molto raro che riesci a entrarci sulla RAI o su altri canali. Io perlomeno non disturbo, perché se non disturbo qua da me non disturbo da nessuno, perché è unica centralina, capito? Quella lì disturbava quella signora, ti ricordi? Che gli rompeva le scatole a quella, l'unica che gli rompeva le scatole. Poi per carità già. E infatti è per quello che poi ne avevo smartellato tutto. Sì, adesso migliora il tempo, salgo su e la tolgo giù con l'antenna. Tanto devo piattare anche un'antenna per i ricevitori, tutto quanto, e vediamo un po'. E cosa metti per il ricevitore, Fra? Un discone ci metto. Nuovo? Dove l'hai preso? Da internet? Non ce l'ho ancora, devo prendermelo. Ma ci metto un discone per il ricevitore, cosa sto a mettere? Un'antenna? Io non so manco come sia fatto questo discone. Ma lo immagino rotondo, dai, a forma di disco. Il discone praticamente c'ha 12 radiali su e 12 giù. Praticamente sono radiali, mi sa che sono da 80 centimetri quelli di giù, e quelli di su sono da 40. Kappa. E si prendono tutte le frequenze, così, ma va bene anche per la 27 il discone. E io con quello prendi tutto, capito? E se l'attacca al ricevitore è chiaro che prende, non è un trasmettitore, non lo devi usare come trasmettitore perché non trasmette come tipo di antenna, e diciamo che è solo per ricevere tutte le frequenze. Ah, ecco, capito. Avanti Luca. Ma che c'ho il caffè, dai, riprendi già. No, non trasmette, forse c'è quello per trasmettere anche, c'è solo quello per ricevere. Vai fra, beviti il caffè. capito, c'è anche quello per trasmettere. No, non trasmette, c'è quello che praticamente serve solo per ricevere, in trasmissione non va. Antu, c'è quello che trasmette anche il discone, ma c'è quello che riceve solo K. Tu ce l'hai. Avanti chi chiama? Attention my friend, Italy from Sardinia. Ciuciu, che di parole. È fatto per quello. Attention my friend, Italy from Sardinia chiama. Ehi, a qui Carica risponde. Carica, avanti. Ehi, buonasera, dai, ben sentiti. Buonasera a te, doppio rum da questa parte in compagnia di Antonio Bombolo. Avanti, chi sei? Leone Primo, dai, qua in Marra Pesate, direzione Sassari. Ah, cos'è da rifornire? No, no, basta Perugia, basta, rientrando a casa. Kappa, dai. Va bene, dai. È finita anche per oggi, dai. Io ho fatto 38 anni, sempre guidando, dai. Non so cosa vuol dire. Eia, ciao, ciao. Ma non ho più voglia. Ciao, buon rientro, dai. E buona continuazione serata. Avanti a tutti. Ecco, saluto l'amico. Ho sentito Santiago 1, per essere che tutto è negativo. C'è a carica. Ma in quel, deve essere che in quel punto no, però l'ho sentito bene, mi svolge. Io. Vabbè. Dai. Lascia farci riposa, non è che sa quanti chilometri ha fatto oggi. C'era un periodo che andavo a Bonorva, Chirivani, Bonorva, poi andavo a Santa Teresa, adesso pochi, 20 chilometri di Brasile. Dove abbiamo i negozi noi, andavo a portare la verdura, a portare la merce, capito? I negozi noi ce li abbiamo a Santa Teresa, Bonorva, cosa, come si chiama, un'altra cosa, ma non Chirivani, ne sto sbagliando, non mi viene, dai, vicino a Bonorva. Ma non si occupi tra Valiente, Antu. Sì, quello di Bonorva, sì, l'altro di Chiesi, lo stesso Chiesi è la nome, era Chirivani, Chiesi. L'altro di Chiesi lo stesso, però gli altri, quelli di coso, di Santa Teresa ce li abbiamo, Santa Teresa, Platamona, Porto Torres, ne ha chiuso due, ma gli altri ce li abbiamo tutti. E ho fatto anche quello. Tornavo quando, dopo che consegnavo, mi facevo anche le consegne agli asili, bar, eccetera, eccetera. Lui non finiva mai per me, fissa che dove andavo ero gribato. Anche quello fa, tanto poi quelli che prendevano la roba al quarto e quinto piano prendevano anche 10 casse di acqua, 2 casse di birra, pelati, tutta cazzone, proprio per avere la scorta, per non portarla loro. E a me è passata che abbiamo su un tanto a collo, capito? L'acqua paghi 1 euro a cassa e più di 3 casse non te le fanno portare. Adesso come hanno cambiato i principali, ha cambiato tutto, sono meno schiavisti. Puoi prendere massimo 3 casse d'acqua da portare a casa e paghi 1 euro a cassa per portartene. Poi ogni 3 casse, perché te lo mettono in busta, poi lo mettono dentro le cassette, ogni 3 cassette paghi 5 euro, quindi non è conveniente. Sì, i miei colleghi stanno lavorando molto meglio. Adesso dice ci sono poche consegne da fare, perché la gente quando si tratta di spendere se la portano via loro, capito? Ma prima era gratis e ne approfittavano, 20 casse d'acqua all'ultimo piano, una volta si doveva fare la piscina, tutte in una volta l'acqua, le ordine 5 al giorno, cavolo, ma 20 casse tutte in una volta. E la cosa gliel'ho detta perché dopo che mi sono gufato rumato, ho detto grazie soldato, ma detto se avevo fatto un viaggio di rumandrone, capito? Allora mi ha fatto incazzare lì. No, gli ho detto se ne potevo ordinare 5 al giorno e gli avrei portata lo stesso, mancate 20 casci allo sesto piano. Poi la matta me ne esci tanto, solo chiuso da voi verrà tutta ripresa. Avrò fatto 6 o 7 viaggi. Sì, se li chiedevi un ragazzo ti diceva se vuoi ti mando i carabinieri. E quelli che c'erano prima erano tiranni, brutti, tiranni, ma con tutti erano così. Poi sono sopraggiunti gli altri, quelli nuovi, ragazzi giovani, gentili, ti chiedevano una cosa gentilmente, per cortesia Gianni mi può fare questo, te lo dicevano con gentilezza, capito? Già lo capivano, ci interessava solo fare soldi e strizzare gli altri come spugna. Tanto volte e volte passava al satellite, mi sedevo un ragazzo e gli davo i soldi, capito? Perché magari non ce la facevo, ero grimbato. E gli davo anche le mance che mi davano, le davo tutte a lui. E poi adesso esistono i carretti col motore per portare sulla roba, non fare nessuna fatica, fa tutto il carrello. Tu acceleri e tira tasolo. Io prima tiravo tra spalle con le pedale dell'acqua, lo già cantubissane, tutto a mano, senza motori, senza nulla, adesso ci hanno tutto motorizzato, non fanno fatica, la fatica che facevamo noi prima adesso la fanno le macchine, chi guida non si prende nessuna fatica, capito? Non fa nessuna fatica, i tempi sono diversi, capito? Vabbè, tempi passati sono. Io sono tutto pieno di artrosi per tutti i lavori pesanti che ho fatto, capito? Le dita, a volte mi si chiudono a scatto perché mi fanno male, le dita dei piedi, le gambe, la parte di sopra del braccio dove c'è la scapola. Tutti i dolori che ti vengono perché hai fatto fatica, capito? Si sono trasformati in artrosi. Ma allora sai cosa ti dicono? Se io ti do 1500 euro, ne pago 3000, quindi per 3000 euro tu mi devi garantire il lavoro, perché se non mi conviene non ti tengo nemmeno. Perché loro sono arrivati a dirmi cosa facevo tutta la giornata, glielo dovevo scrivere e presentarli in un ufficio cosa avevo fatto. Voleva sapere dalla mattina alle 8 che entravo, sì, da quando me ne andavo, che cosa avevo fatto. E io dovevo scrivere tutto quanto, l'ho fatto una volta, poi mi sono rotto le scatole e gli ho detto, ascolta, ti va bene così, se no io non devo stare a scrivere ogni volta quello che faccio. Lo sanno nei negozi quello che faccio, per le consegne che faccio, tutto quanto, quindi basta che chiami i negozi, lo sanno. E mi ha detto che secondo quello che facevo, se non li conveniva non mi teneva più. E quello lì era i tempi che stava stringendo perché c'erano problemi, capito? Quindi aveva paura di spendere troppo. Lo so, ma quando c'è famiglia non puoi mollare. Devi avere prima l'altro lavoro e poi mollare quello. Non è che ti puoi permettere di stare senza lavorare. Diciamo che prima peraltro ti devi trovare un altro lavoro, anche nello stesso ambito, magari di gente che paga, nello stesso ambito magari riesci a trovare qualcosa. Per dire cosa ha aperto anche in via Baldetta adesso, quello del latte dolce, puoi chiamare e chiedere se riserva il genio. Infatti, ma deve essere così, se uno lavora deve essere retribuito per quello che fa. Quello magro magro che lui è Giuseppe. No, questo qua che è venuto a casa è alto, l'ho presa lì la bombola l'altro giorno. Visto che tu non ci stai lavorando, ho detto vabbè, la bisogna anch'io. Pala. Ehi vabbè, comunque ti dà portata anche la domenica a casa, buon complice di zenne, ma l'ha portata di domenica, ma era di domenica quando l'ho ordinata, per quello l'ho ordinata la lui. E dopo sembra fatto apposta, sempre la domenica ti finisce. Il brutto è che io ne avevo due di bombole, sono andato ad attaccare quella di fuori ed era quasi finita anche quella, ha fatto a metà la cottura e poi se n'è andata. Furetta, sono morti due tutti gatti in paglia. E allora, ne ho preso due. Adesso il figlio di quello che c'era prima c'ha un negozio vicino a casa, un negozio alimentare che lo vendi lui, da sempre andato alla Iatta, anche signora Peppina, ma è negozietto oppure è negozio grande, e magari si è attirare la clientela. Quando c'era quella ragazza al posto suo, non sai quanto vendeva, c'era sempre gente, poi è arrivato lui, poi lui così è andato alla Iatta senza fare nulla. l'altro giorno sono andato, ho detto, ascolta, hai formaggio stagionato oppure formaggio di Osilo? No, me lo devono portare, quello di Osilo non l'ho tratto, mi portano quello stagionato, però non ne ho adesso. Ho detto, vabbè, ciao. No, ma io lo sai cosa, ho intenzione di salire a Osilo, nella strada di Osilo, che lo prendevo sempre lì, c'era un CB che si chiamava Pastore Serafino, modulava la notte perché stava lì a controllare le pecore, capito? E modulava, c'aveva 140 in macchina, eh? E un giorno siamo andati con Marco, praticamente che era piccolino, e niente, siamo andati lì a Osilo, siamo scesi dalla macchina, questo qui ci è venuto incontro, e Marco ha detto, chi sei tu? Pastore Serafino? E quello, come fai a saperlo? E lui ha detto, perché tu parli al baracchino come un padrone di notte? E chi è tuo padre? Gianni Doppio Rum. Ah, caspita, che piacere, venite. Ci ha portato in questa stanza, ma tutta pulita, tenuta bene, dove facevano il formaggio, tutta tenuta bene, il formaggio sulle assi e cose, ce l'ha fatto scegliere e ne abbiamo preso due forme, e una forma di ricotta musti abbiamo preso, ed era buono, veramente buono, stagionato è quello duro duro da grattugiare, no, semistagionato, tanto, quello che diciamo si lascia tagliare ancora, poi ci avevano anche quello fresco da fare arrosto, però a me quello non mi interessava, e mi ha detto che ci avevano anche il formaggio con i vermi, questo gliel'ha ordinato, gliel'ha fatto fare e poi non è andato a ritirarselo, e l'altro giorno dice è venuto uno e l'ho visto e mi ha detto me lo dia tutto, quello che c'ha me lo dia tutto, se l'ha tutto preso, meno male dice, perché se no me l'aveva fatto fare e poi non è venuto a ritirarsi. E quello stagionato è più saporito, è quello più piccante, da quello che rimane più saporito, però anche semistagionato già è buono, già è buono, quello di Osilo poi è buono il formaggio. Guardi, quei formaggini commerciali, è più buono in assoluto il Fiore Sardo. Fiore Sardo è un formaggio buonissimo, a me piace tanto, anche se è molto stagionato, si spacca quando vai a tagliarlo, però è buono, buono, buono. Tu quando vedrai andiamo e ti rubiliamo, sai io. E io ci sono andato un po' di volte, però da tanto che non vado, ero sposato ancora quando andavo, figurati. Sono già 6 anni che sono separato, quindi immagino. Ma penso che faccia parte della cooperativa lui, che sia uno dei pastori, si è preso a Marco per mano, l'ha portato a vedere gli agnellini, ha detto vieni con me, ti porto a vedere gli agnellini, quando gli ha detto che era mio figlio. Intanto vero io sto provando una cosa, dai. Va bene, mi ascoltate, sì. Ehi, il caffè è preso, te l'ha. Va. Quanto ne prendi caffè al giorno, fra? Allora, oggi ne ho preso 3. No, io così tanti no. È difficile che ne prenda anche 2 qua. Io lo stesso, io mi faccio un cappuccino, che manca roba, rovaggio, dico la schiuma così. Un bel cappuccino col caffè e via. Io ce l'ho dei lunghi in tutto il giorno, Cosa fra? Ho detto 3 caffè in tutto il giorno, capito? No, sono tanti, dai, però io ne prendo di meno. Vabbè che io mi faccio quella da 2, perché quando la metto nel latte metto il misurino da 2. Quindi già 2 caffè ghisci. Poi uno me lo prendo dopo pranzo, ho fatto il gioco. Già, vabbè, ce ne prendi un bel, fa anche male, capito, per caffè, è un casino. Un periodo mi faceva un attacco cardiaco, me lo sai. E quindi quale caffè prendi, decaffeinato? No, adesso è normale, me l'ha fatto per un periodo, sono stato senza prenderlo per un po', e poi mi è passato, non me lo fa più. Perché vuol dire, se non è da parecchio che non lo prendi, può fare quel problema lì, tutto lì. No, io ce l'ho dei lunghi, fa cappuccino e tutto. Cava. Ma fa solo il caffè però. La tua non ce l'ha l'aria calda per fare cappuccino. Cosa? Non ho capito. Corarello. Che vengono, vita mia, fratello mio, che è mio fratello. Ma com'è non ti rimuove il muro direttamente? Senti quella piccola madre di Dio. Ma te attenzione, Franco Califoglia, vita mia, fratello, che ti ascolto, vorrei chiedere. Che bello. Malocco, compra i granelli, quelli che vendevano spine, e dopo vedo la risposta. Io usavo i granelli, si chiamano, quelli dolciando si chiamano granelli, non so se Luca li conosce. Sì, senza burro, senza uova. E quelli sono buoni, solo che io non li posso mangiare, non ho più comparato. E come si chiamano? E vabbè, no, per sapere, no, per farci una cultura. E fra poco dovranno usare le farine animali, preparatevi, che faranno le farine dei grilli. Dice che la mettono nel pane, da tutte le parti, io non mangio più nulla. E se la stanno facendo con le farine dei grilli, dalle cavallette. Ho visto questa tipa su internet, è andata a fare la spesa e ha detto, ah, guarda, ci sono le cavallette impanate, adesso le provo. E ne ha comprato una bustina, tipo le patatine erano, così. E ha detto che sono buone. Se tu non ti muovi in capo che sono cavallette, magari le mangi. A me mi avevano fatto mangiare un riccio di marcia, io non lo sapevo che era riccio. E mi è piaciuto, la verità, era buono. L'hanno fatto arrosto allo spiedo. Io non sapevo che era riccio, la verità. Pensavo che era carne normale, loro l'hanno tagliato prima di metterla a tavola e io l'ho mangiato. E mi ha detto, oh, buono, che cosa è? E lui mi ha detto, un riccio di marcia. E ho detto, mamma mia. Non lo sapevo peraltro, se non l'avrei toccato. Buono, era buono. Sapore della carne arrosto, tipica. Iatta penso di non averne mai mangiato, ma un riso di marcia l'ho già mangiato. E tu fra? Franco. Sai, ma è un usurico. Che chiama, avanti, buongiorno. Ho detto, un riso di marcia, ma è mangiato. Oh, negativo, negativo. Ehi, ti ho mangiato un bollo. Ma hai detto, via di pizzone, invece era un usurico. Ah, che schifo. No, quello no, però ho mangiato dai cinesi una volta, a me non mi ha mai ispirato andare dai cinesi, e questa greffa di amici e di amiche, aiuto che andiamo, dai, siamo in compagnia, un sabato, e mi trascinano ad andare, per non fare l'orso ho detto vabbè vado, siamo andati tutti in greffa, e era self-service, c'era anche l'astice, te lo cucinavano davanti, te lo sceglievi e te lo cucinavano, potevi mangiare quello che volevi con 18 euro, me lo ricordo ancora. E io avevo preso questa cosa fritta, sembravano zampettine coscettine di uccello, ed erano buone, forse penso che fosse rana, non lo so che cosa era, però erano buone, saporite. Poi avevo preso qualche altra cosa, c'era anche il gelato, te lo servivi tu, te lo mettivi tu il gelato, tutto quanto self-service. E poi avevo mangiato anche l'astice ed era buono anche quello, te lo facevano davanti, c'era una vetrata, proprio lo vedevi mentre lo cucinavano. E appunto queste coscette di cose, tutti quanti, c'era stato qualche topolino, qualche cosa, ma comunque sono stato lungo, a mal di faccia, diarrea una settimana. Proverità, immagino. E vabbè, comunque. Che ci vuoi fare, purtroppo? Casino è già. Beh, signore, io vi saluto, scendo la macchina. Se ci siete più tardi, non credo. Io arrivo verso le 8:30 a casa. E vabbè, vediamo un po', dai. Cosa stavo dicendo? Riprendi fra, dai, saluta Luca. Ciao Luca. Ce l'hai ascolta le prossimine, ciao ciao. Saluta Marina anche da parte mia, ciao ciao. Grazie frate, saluto anche da parte sua, capa. Saluta Lucia, capa. Tutti i positivi, capa, oggi, capa, fratello. Ciao ciao Luca, riprendi già. Ehi, Anto, aspetta, saluta Luca. Anto, ci sei dopo, dai. Sono 8:30, sono a casa. Cosa gli fai giù, è freddo. Io sono uscito e me ne sono pentito. Oh fra, dimmi già. Ho portato quell'Uno Gecko Drive che c'avevo nella città, che praticamente se ne andava un'ora indietro, è sempre stato perfetto, ha cominciato in questi giorni, se ne andava un'ora indietro e cosa, e l'ho portato a aggiustare, dice che ci vuole l'accumulatore nuovo. Perché si rovina come le batterie della macchina, a furia di usarlo poi si rovina. E poi poi gli ho portato il sector, quello lì l'avevo pagato un bedilina, quello lì dovevo mettere la batteria, l'avevo portato a Città Mercato. Questo sector è praticamente è un crono sub, e praticamente mentre va acqua, quando mi lavavo le mani si appannava, l'ha aperto e mi ha detto che gli hanno tolto la guarnizione, non gliel'hanno rimessa nuova, che è per quello che trava acqua. Adesso me li dovrebbe dare domani sera, perché deve cercare la guarnizione originale e cambiarmela, almeno il sector me lo dà. L'altro non lo so se trova in accumulatore, se lo deve ordinare. E però deve fare anche la prova della pressione, capito? E beh, certo che la fa, la prova dell'acqua si chiama. E se non c'è entra acqua è un casino. E allora? No, ma una volta che tu metti la guarnizione acqua non entra più. È che quando mi hanno cambiato la batteria a Città Mercato non l'hanno lasciato la guarnizione, invece le si è rotta, togliendola ce l'hanno buttata via, non ne hanno messo, capito? Allucinante che è un orologio che costa 390 euro, non costa 2 lì. E lo so, costano meglio gli orologi. È tutto un acciaio, il mio è bello. E poi c'è una forma strana, mi l'avevo comprato insieme a Natalino, cioè se lo ricorderai, in un giorno ne avevo comprato due orologi, uno al corso e poi sono andato e mi sono comprato uno Swatch 180 euro, avevo proprio la porra degli orologi quel periodo. Oh, a tu. E comunque la batteria è apposta adesso, ma voglia che dura. La potenza è sempre la stessa, però la durata. Allora, praticamente ho fatto l'altro giorno, ieri si è fatto dal casa, sono andato al ponte nuovo, sono ritornato indietro, sono risalito al monte, poi di nuovo sono andato in via Rosello, quindi devo portare un telecomando, poi via Rosello, ho fatto tutto il centro di Sassa e sono andato al Palazzo Rosa, anzi la cambia che fa una vita, sono salito a casa con la batteria piena. Ehi, c'è le Samsung, non uso, quelli risparmio, magari recuperare il sirena. Ehi, vabbè, dai. Ho fatto fare di nuovo i freni, adesso frena meglio. È a posto, devo cambiare solo i cavi e basta, perché sono tutti sbucciati. E per il momento è a posto, dai. Forse viene un tipo di, ma com'è a comprare, a prendersela? Io mi compro quella che ti ho detto. Mi incasso un po' di soldi adesso, mi compro quella. Quale? Quella che c'ha le ruote grosse, lui? Sì, 1800 euro costa. Eia, Ciantu, va a mangiare, vai. Babbo, dai, scappo, vado a prendere il tram. Ciao. Ma bisogna pedalare un bel, no, lo stesso. Poi Luca c'ha la fortuna che abita in basso, quindi la può caricare tranquillamente. Dalla cantina, con il fustiglio che c'ha, magari la carica lì. Ah, boh. Che è rimasto avanti. Attenzione, sul canale 10 c'è qualcuno. Chi è avanti? No, stavo controllando le stazionarie. Uno, neanche uno e uno ne ho. E controllate il microfono che stai uscendo con fischi. Ancora? Premi e non parlare. Ah, ma si sente il televisore. Perché c'è una camera da letto, c'è il televisore acceso, aspetta che la abbasso. Gappa, adesso sì che te la stai facendo la pacchia. E se conferma, frate. Gappa, gappa. E bisogna che organizziamo qualche cosa, allora. Gappa, gappa, qua tutto positivo. Sì, ma cazzo, c'è la campagna mia, fredda, allucinante. No, ma lui c'è bravo, dai, non è buio di nulla. Sì, c'è freddo fuori, di brutto. Freddo, se sono uscito stamattina, mi sono cancarato. Ho fatto da Viale Umberto sino al corso dove c'è il tabacchino su quasi Piazza Azzurri lì, che c'è quell'orologeria. Sono andato lì a portare l'orologio perché quello è bravo, mi aggiusta bene. Sono andato lì e...